di star. Sono le tue lacrime. Che spezzano il cuore per la libertà, pur di star. Dammi la tua mano e stringere la lotta per la libertà, figlio, figlio del Kurdistan. Tu piangi e sei lontano e sogni la tua terra, tornerai, tua madre sulla porta, il suo viso è come il sole e ti sta aspettando. Spezziamo le sbarre e le catene a tempi di oppressione, gridiamo rivoluzione adesso, senza più aspettare. Sconfiggere il nemico che ha rubato questa terra, terra dal profumo incantevole. Una storia infinita, amarti è bellissimo, Kurdistan, Kurdistan, Kurdistan, un giorno sarai libero. Sono le tue ferite che non guariscono, questo dolore. Kurdistan, dammi la tua voce e gridare al mondo la tua prigione, figlio, figlio del Kurdistan. Sul tuo viso stanco il tempo non si fermerà, tornerai nel tuo paese libero e con le mani strette ballerai ancora. Fermiamo la violenza su questo popolo che ha spezzato la vita di gente innocente. Adesso, senza più aspettare, sconfiggere il nemico che ha rubato questa terra, terra dal profumo incantevole. Una storia infinita, amarti è bellissimo, Kurdistan, Kurdistan, Kurdistan, un giorno sarai libero.